Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e soprattutto a tutti buon inizio settimana. I negozi di compro oro sono stati oggetto di un vero e proprio boom in questi anni di crisi, boom da diversi punti di vista. Gli italiani sono sempre più spesso in difficoltà, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, si mettono alla ricerca di liquidità vendendo i gioielli e preziosi di famiglia. Nel corso del 2012, ha calcolato l'Eurispes, oltre il 28% degli italiani si è rivolto a questo tipo di attività. Questa maggiore richiesta ha portato alla proliferazione di questi punti vendita, ma anche l'attività di controllo della Guardia di Finanza si è notevolmente intensificata negli ultimi anni per cercare di intercettare anche operatori che operano non propriamente secondo criteri di legalità. Si è quindi innescato un circolo ben poco virtuoso che però forse sfugge alle persone che hanno bisogno e quindi quando si è nelle necessità di raccattare un po' di soldini per arrivare alla fine del mese magari ci si rivolge al primo operatore che è all'angolo della nostra via. La cronaca continua a raccontare sempre più spesso di situazioni in cui questi esercizi sono stati al centro di operazioni illegali come riciclaggio, ricettazione, esercizio abusivo del commercio di oro. Allora Salva Danaio oggi ha voluto ritornare su questo argomento, anche se per la verità è stato affrontato da moltissimi giornali, anche dalle associazioni dei consumatori che vigilano con grande attenzione. Noi però una puntata specifica non l'avevamo ancora dedicata e siccome l'attività di questi punti vendita, chiamiamoli così, sta appunto proliferando, ci è sembrato il caso e ci è sembrato appunto necessario ritornare sull'argomento, magari spiegandovi bene intanto quali possono essere quei segnali che potete intercettare per individuare un operatore corretto da uno invece che opera in maniera meno trasparente, e quindi cerchiamo di raccogliere appunto tutti i consigli utili per evitare di trovarsi in una situazione spiacevole se si decide di vendere il proprio oro. 800 24 00 24, il numero verde se vorrete, per condividere con noi anche la vostra esperienza, se vi è capitato di dovervi rivolgere a centri come questi. Ci sono stati dei casi in cui magari avete avuto la sensazione di trovarvi in un ambiente che opera non molto correttamente, perché sappiate che ci sono degli operatori totalmente invece trasparenti e corretti che operano secondo tutti i crismi di legge, per cui è anche importante appunto rivolgersi alla persona corretta. Allora, questa mattina con noi abbiamo un bel po' di ospiti. Prima di tutto sentiremo la Guardia di Finanza, il maggiore Antonio Ape, appunto della sezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza, che ci farà un punto della situazione, ci racconterà soprattutto quando anche come semplici clienti di questi punti oro possiamo rivolgerci alle Fiamme Gialle per denunciare l'operato di personaggi non chiari. Poi avremo Lamberto Santini, presidente dell'ADOC, di un'associazione dei consumatori, e sentiremo anche Andrea Zirone, presidente di ANOPO, associazione di promozione sociale e culturale nel mercato dell'oro. Oltre al numero verde potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. animate anche se volete dibattito su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Andiamo subito a sentire la nostra scheda allora, che ci racconta cosa è successo in questi ultimi anni di crisi e come siamo arrivati a questo boom dei compro-oro. Tra i sintomi della crisi c'è anche, purtroppo, la scelta di rinunciare agli ori di famiglia. Quando tagliare le spese superflue, rinunciare alle vacanze e attingere ai risparmi non basta per arrivare alla fine del mese, ci si rivolge a chi può trasformare in liquidità anche gli oggetti e i ricordi di valore, non solo economico. E se una volta ci si rivolgeva al banco dei pegni, oggi è in atto un vero e proprio boom dei compro-oro, che a differenza dei banchi non si limitano a trattenere in garanzie i preziosi, ma li acquistano una volta per tutte, approfittando dell'incremento del valore del metallo giallo di questi ultimi anni. È un fenomeno che da un lato intercetta le nuove povertà e dall'altro, purtroppo, molte attività illegali e criminali. A cavallo tra il 2011 e il 2012, con l'operazione Gold Scrap, rottami d'oro, la Guardia di Finanza ha eseguito 289 verifiche sui compro-oro, trovando 32 evasori totali, 115 milioni di base di imponibile sottratti, 47 milioni di imponibile IRAP e 37 milioni di evasione IVA, denunciando 60 evasori. Con la più recente operazione Fort Knox, poi, sono stati confiscati beni per 163 milioni di euro, con 118 indagati ed oltre 259 perquisizioni e sequestri. Per il cittadino, quindi, c'è un duplice rischio. Da un lato, quello di contribuire involontariamente ad un'attività illegale e dall'altro, quello di vendere i propri beni ad un prezzo inferiore rispetto ai reali valori di mercato. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi in diretta. Se volete condividere con noi la vostra esperienza, se vi siete rivolti a questi compro oro, con che sensazione siete entrati, naturalmente è chiaro che ci si va se si è in difficoltà, ma anche perché magari, che ne so, si è in possesso dell'oro della nonna e la si vuole monetizzare, anche se non si è in condizione di necessità, ma perché magari, che ne so, sono anche dei pezzi che non sono di proprio gusto. Ci possono sicuramente essere tante circostanze, anche se per la verità negli ultimi anni in questi posti molte famiglie sono entrate perché sono appunto in oggettiva difficoltà economica. Maggiore Antonio Ape della Guardia di Finanza di Roma, sezione antiriciclaggio, buongiorno e grazie di essere intervenuto. Buona giornata. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Abbiamo raccontato nella nostra scheda delle vostre operazioni più eclatanti, più importanti degli ultimi tempi. Sicuramente ci sarà invece un'attività accanto a tutto questo, un'attività quotidiana più silenziosa. Voi avete la competenza esclusiva di controllo su questi soggetti, giusto? Come avvengono, sì, i vostri blitz dai quali leggiamo sui giornali? Avvengono dietro segnalazione magari di un avventore che si è insospettito da un compro oro, oppure perché magari vi ci imbattete perché indagate su altro? Che cosa succede nell'ambito della vostra attività? Sì, la scheda che avete proposto ha evidenziato ovviamente una serie di anomalie dal punto di vista fiscale, però proprio come responsabile della sezione antiriciclaggio mi preme anche sottolineare che la nostra attività ha un'altra prospettiva, potremmo definirla duplice. Quindi, se da un lato vi è anche l'attività che effettuiamo in campo fiscale, i dati che avete comunicato nella scheda sono stati assolutamente, come dire, corretti, perché hanno ripercorso e rispecchiano quello che è stato effettuato dai vari reparti del corpo della Guardia di Finanza nell'anno che è appena trascorso. Dal punto di vista antiriciclaggio invece, la normativa è del decreto legislativo 231 del 2007, quindi non è nemmeno così nuova, ci pone nei confronti di tutta una serie di soggetti, tra cui anche Comprooro, a vigilare in modo esclusivo. Come ovviamente si vigila? Si vigila in modo autonomo, quindi attraverso tutta una serie di analisi sul territorio che i vari reparti del corpo possono effettuare, studiando le caratteristiche che ogni territorio, quindi ogni area geografica del nostro paese ha, e nello stesso tempo ovviamente ci serviamo, a dir vero, delle poche segnalazioni che fino adesso sono arrivate da parte di questo tipo di operatori, e poi purtroppo per una parte non residuale spesso veniamo o delegati, oppure possiamo anche agire di iniziativa, quindi attraverso i rapporti con l'autorità giudiziaria, effettuare tutta una serie di attività investigative che poi portano a contestare fenomeni anche penalmente rilevanti, quali la ricettazione, il riciclaggio, quindi la ripulitura dei capitali illeciti da illeciti a leciti. Ecco, dal punto di vista di un privato cittadino, Maggiore Ape, che cosa deve insospettirlo qualora entri in un negozio, ancor prima che magari appunto si intavoli una trattativa, perché poi lì ci sono altri segnali relativamente a tutta una serie di certificazioni anche che il Comprooro deve rilasciare? Poi tutti questi punti li affronteremo con Zironi, ma nei momenti in cui si entra ci sono anche dei segnali, come dire, ambientali che devono destarci dei sospetti? Ma dal punto di vista del cittadino sicuramente posso consigliare che qualora ci si imbatta in una situazione che ovviamente è alla valutazione soggettiva di ognuno di noi, possa essere, non so, una reticenza da parte, dal punto di vista del soggetto, dell'operatore Comprooro, piuttosto che tutta una serie di proposte che non trovano nella controparte, quindi noi cittadini, ecco, mi medesimo anche io, che ci richiamo per qualsiasi motivo. Lei di prima diceva, parlava di difficoltà finanziarie, ma anche velocità nel liquidare, avere liquidato l'importo in euro dei nostri preziosi, dell'oro. Qualsiasi tipo di comportamento a me possa destare, come dire, sospetto da proposte che mi fa abbastanza strane o da tutta una serie di facilità con cui mi vorrebbe agevolare questo tipo di vendita, anche da, non lo so, scarsezza di insegne piuttosto che una serie di mancanze e licenze che magari non sono visualizzate in modo diretto, ecco, tutta una serie di comportamenti abbastanza alquanto soggettivi che possono poi essere anche oggetto, ecco, ci si può rivolgere direttamente al numero 117 oppure interagire anche con internet, sono molte infatti le richieste anche che riceviamo attraverso la nostra casella di posta elettronica, di qualsiasi dubbio, di qualsiasi chiarimento e perché no anche di anomalie, ecco, che vengono riscontrate. Certo. È chiaro che la nostra attività non si svolge tanto sulle caratteristiche che possono insospettire o possono destare sospetto nei confronti di un cittadino e che si rivolge quindi a noi, certo, per far sì che noi interveniamo. La nostra attività va ovviamente ben un po' oltre, verso altro tipo di attività e si concentra più che altro sull'operatore compro oro e su tutta una serie di analisi che vengono ad essere effettuate anche a livello territoriale dai nostri reparti, che in base, dicevamo prima all'inizio della trasmissione, un aumento spropositato di questi compro oro, chi opera sul territorio, le varie pattuglie, i vari colleghi della Guardia di Finanza riescono ad avere quasi un'analisi del territorio, a verificare che magari ce ne siano tanti, cioè si siano sviluppati in larga percentuale negli ultimi anni e quindi questo possa magari permetter loro di analizzare quindi il contesto, andare più a vedere nel dettaglio e verificare che i compro oro possano adempiere a tutti gli obblighi che la normativa sia fiscale che ovviamente soprattutto antiriciclaggio pone loro. Certo, Maggiore, un'ultima domanda, un flash, lei lo ricordava proprio poco fa, aprono a getto continuo, sì, questi compro oro, ma chiudono a ritmi altrettanto serrati, li chiudete a ritmi altrettanto, imponete la chiusura a ritmi altrettanto intensi? L'attività della Guardia di Finanza è un'attività sicuramente preventiva, quindi anche educativa se vogliamo, perché è tipica di un'operazione di un'attività di un corpo di polizia, ma è anche un'attività repressiva. Abbiamo negli ultimi anni effettuato moltissime operazioni, nella sua scheda ricordavate l'operazione che è stata condotta l'anno scorso, ma posso dire che insomma in questi due anni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di metalli preziosi, quasi 3.000 chili di argento non lavorato, quasi 5.000 monete d'oro e d'argento, 3.760 orologi d'oro, cioè tutta una serie di attività che purtroppo da un lato ci vedono, come dire, controllare fino a quando la transazione, il rapporto tra il cittadino e il compro-oro è lecito, tutto va bene, dall'altro invece ci sono purtroppo, spesso si innestano, come dire, in queste maglie anche i comportamenti criminali, certo, della infatti, criminalità, perché questa, della criminalità organizzata. Queste moli ovviamente sono frutto di refurtiva, non sono ovviamente, come dire, ovvio, materiali che portano le famiglie perché hanno bisogno di liquidità. Maggiore Api, io la ringrazio molto per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente, complimenti per tutto, spero grazie di risentirla presto magari per fare chiarezza su altri fenomeni che interessano le famiglie e sui quali però bisogna prestare attenzione. Buona giornata, a presto. Arrivederci. Allora, da chi vado? Da Santini o da Zironi? Vado subito dall'operatore del settore, Andrea Zironi, presidente di ANOPO, associazione di promozione sociale e culturale nel mercato dell'oro, che tanto si spende per divulgare tutti i vademecum necessari, come fanno le associazioni dei consumatori, per poter individuare l'operatore corretto e fare una transazione che, anche se si fa in caso di emergenza finanziaria familiare, si deve però fare secondo tutti i termini di legge previsti per transazioni di questo tipo. Non ne dico quanti messaggi stanno arrivando, peraltro questo non ho fatto in tempo a leggerlo. Al Maggiore Ape, dite alla finanza di andare in quei compro oro che espongono in vetrina, ritiro a 49 euro al grammo, perché questa è truffa, perché non siamo nei prezzi di mercato attuali. Zironi, che ne pensa intanto di questo tipo? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori, saluto anche il Maggiore Ape, saluto un po' tutti, sì è vero. Diciamo che c'è questa realtà oggi importante e il telespettatore ha perfettamente ragione. Anche se anche se devo dire che lo fanno con quei messaggi, sono molto alambicati, cioè bisogna fare un calcolo importante, un calcolo che io leggo 50 euro al grammo, però quei 50 euro non sono riferiti agli oggetti preziosi, ma è riferito all'oro puro che viene, che è contenuto all'interno degli oggetti preziosi. Ah, beh, quindi insomma, per avere 50 grammi, per avere un grammo d'oro bisogna portare 50 grammi di come dire, di gioiello, cioè, che potrebbe... Esatto. Non so neanche dire se possa essere una pubblicità ingannevole o meno, perché comunque uno pubblicizza il prezzo per il quale lui è disposto a pagare l'oro puro contenuto nel gioiello. È chiaro è che si fa molta confusione, perché il consumatore finale in testa che lui ha un oggetto che è in oro e per lui è oro. Certo, ho venduto un braccialetto nel negozio di una carissima amica, la transazione è stata ottima, ci dice ottimo rispetto per la privacy, giustamente anche questo è un aspetto molto importante. Certo. Daniela ci racconta: sono disoccupata, non trovo lavoro e sto finendo la disoccupazione, questo è un caso tipico dei quali stiamo parlando questa mattina. Noi vogliamo sollevare l'attenzione proprio su queste persone, perché quando ci si trova in condizioni di emergenza familiare, di grande necessità, in uno stato di bisogno terribile, sono queste le persone che possono incappare più facilmente in un interlocutore non trasparente, quindi la trattativa può avvenire secondo termini molto semplicistici e quindi non accontentare evidentemente la persona che ha bisogno di questo denaro. Allora, noi su tutti questi aspetti ci ritorneremo nella seconda parte della trasmissione. Ci sono già due ascoltatori anche pronti ad intervenire: Emiliano da Lucca, Giuliano da Vercelli. Chiedo ancora un minutino di pazienza al presidente dell'ADOC Lamberto Santini, che mi ha sollecitato anche su altri aspetti. Ve ne anticipo già uno, lui dice: ma insomma, in un momento in cui c'è tanta disoccupazione, tanti piccoli imprenditori provano magari a mettere in piedi attività di impresa e fanno fatica perché si imbattono in una burocrazia che scoraggerebbe chiunque, e questi compro oro invece proliferano da un momento all'altro, te li ritrovi sotto casa, e come mai per aprire queste attività non sembra ci sia tutta una serie di controlli adeguati? Se ci si rivolge a un compro oro, è importante mettere in atto alcune precauzioni per evitare spiacevoli sorprese. È importante aggiornarsi costantemente sulle quotazioni dell'oro, prevenendo la possibilità di farsi gabbare dai venditori che applicano un prezzo non corrispondente al reale valore. È bene inoltre verificare se l'oro è a 18 carati, impuro, composto al 75% da oro e al 25% da altre leghe, o oro puro a 24 carati. Spesso il prezzo annunciato si riferisce a quest'ultimo, ma se si vuole vendere oro a 18 carati, il prezzo va decurtato del 25%. Non tutti i compro-oro accettano di comprare oro puro. È preferibile pesare il proprio oro da soli, su una bilancia digitale, o presso un gioielliere specializzato o di fiducia. Non è raro che nei compro-oro la bilancia segni un peso inferiore a quello reale, che si traduce in un ingiusto guadagno per il compratore. Meglio anche accertarsi che il pagamento sia effettivo e che non sia proposto, al contrario, un semplice scambio di preziosi. Meglio diffidare sempre di chi non chiede alcun documento per la compravendita. Tutte le transazioni devono essere registrate. Alcuni esercizi rilasciano una ricevuta, anche se non è obbligatoria per legge. Il documento attesta chi ha venduto l'oro, a chi l'ha venduto, che cosa ha venduto, a quale peso, a quale importo e soprattutto a quanto corrispondeva al valore dell'oro in quel momento. Scegliere un compratore che ci offre questo tipo di garanzie può assicurare una tutela in più. Però mi ha colpito particolarmente il fatto che addirittura ci siano dei compro oro che non accettano di comprare oro puro. Andrea Zironi, sono anche così schizzinosi? Dovrebbe essere così. Perché? Cioè, praticamente un compro oro che non è che non ha tutti i requisiti di una legge dello Stato italiano uscita nel 2000, che si chiama legge 7 del 2000, non può commerciare in oro puro. Perfetto. Perché l'oro puro è sotto l'operatività degli operatori professionali in oro. Bene. Oro puro, ma anche le monete in oro. Allora, vado all'Associazione dei Consumatori. Lamberto Santini, presidente dei ADO, che se no ha sentito tutta la prima parte, penserà che l'abbiamo invitato solamente per ascoltarci. Buongiorno. Allora, voi naturalmente avete sott'occhio il quadro di disagio economico di molte famiglie che appunto negli ultimi anni hanno dovuto anche fare questa scelta, anche molto, come dire, dal punto di vista proprio emotivo, sicuramente molto difficile, no? Però ecco, io anticipavo già prima il ragionamento che facevamo con lei a microfoni spenti, ci siamo sentiti già questa mattina. Ma insomma, ma com'è possibile spiegare anche questo boom di questi compro-oro? Capisco l'attività illecita che sicuramente, come dire, fa aguzzare l'ingegno, ma il malvivente per definizione riesce ad inventarsi di tutto. Però è anche vero che, insomma, in un momento in cui mettere in piedi un'attività d'impresa è difficilissimo per la burocrazia, perché non ci sono soldi, qua invece per questa attività a quanto pare c'è una grande capacità. Sì, buona giornata a tutti anche gli ascoltatori, a lei Deborah. Ma il dato che veniva posto anche dal Maggiore Ape e dal Dottor Zironi, noi lo rintracciamo e lo definiamo con una parola: tracciabilità. E anche quei consigli che sentivo nell'ultimo servizio, che rispondevano molto alle nostre valutazioni come ad hoc, rappresentano una cartina di tornasole e una salvaguardia per un fenomeno che sta diventando devastante. Pensi lei, 28.000 punti vendita di oro e di Rolex, perché poi anche l'orologio svizzero è diventato un bene di baratto. C'è un ascoltatore che peraltro vuole intervenire proprio su questo, ha fatto fare una valutazione, ne parliamo. Sì. E sentivo adesso l'importante chiarimento che dava anche il dottor Zironi, cioè in questi 28.000 punti vendita soltanto 450, diciamo, sono gestiti da operatori professionali oro che vengono controllati e legittimati da Banca d'Italia in base anche ai requisiti della legge 7/2000. Questo è un fatto che dà in maniera esponenziale ed eclatante quale rischio i consumatori giornalmente si trovano. Cioè, la proporzione è 450 su 28.000, per cui io immagino che tipo il primo consiglio che gli operatori danno quando abbiamo bisogno appunto di vendere dell'oro per individuare l'operatore giusto e corretto, quello che fa per noi, girare tutti i negozi delle città per verificare intanto che il peso dei propri oggetti non venga decurtato da bilance truccato da negozianti poco seri. Ma se il rapporto è questo, significa che ne dobbiamo visitare 40 prima di trovare quello giusto. Il dato di fatto è questo. E poi ecco, come diceva il dottor Zironi, per quanto riguarda i lingotti o le monete d'oro, appunto solo questi operatori professionali che sono associati alla Nopo praticamente hanno la possibilità di trattare questo percorso. Ma vorrei far rilevare ai consumatori e ai cittadini che questo dato dello specchietto per le allodole, quando viene dato un prezzo di acquisto, sì, e si riferisce ai 24 carati, che in pratica è oro puro, si commette la prima infrazione. E poi c'è questo dato invece che nei fatti alla fine della transazione il prezzo si riferisce ai 18 carati, perché poi l'oro praticamente è composto dal 75% sì, da oro e dal 25% da varie leghe. E qui c'è tutto il business, ma anche il rischio che il paese sta affrontando. Non a caso il Maggiore Ape poneva il problema di maxi evasioni di 113 milioni, ma noi parliamo di un fatturato a livello nazionale di 3 miliardi di euro, non è una cifra così. Una microfinanziaria. Senta, esatto. Allora andiamo adesso ai consigli per tutelarsi dalle cattive sorprese, che in questo campo sono davvero sempre all'agguato. Prendo un paio di domande di un paio di ascoltatori, così poi andiamo subito al concreto della situazione. Emiliano da Lucca, buongiorno, dalla provincia di Lucca, buona giornata. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. No, io purtroppo, come dicevo prima, penso la trasmissione è già iniziata, quindi spero di non essere fuori tema. Però una riflessione su quello che avete detto mi viene da farla, nel senso che mia moglie si è trovata a dover vendere proprio recentemente, o ha voluto vendere recentemente dei preziosi, diciamo così, dell'oro. E siamo stati la prima volta siamo stati alla gioielleria, dove si sono sempre serviti, diciamo, per vari acquisti occasionali, eccetera. Comunque, dove abitualmente vanno. E ha avuto una valutazione decisamente inferiore rispetto a quella che gli hanno proposto due compro-oro. Certo. Fra i quali, due, c'era differenza già fra loro. Però rispetto alla gioielleria tradizionale, diciamo, dove si sono sempre serviti dalla famiglia, diciamo, C'è stata una, certo, una valutazione decisamente superiore. E quindi lei dice: a me importa ben poco che questi siano operatori non trasparenti, se mi danno molto di più, e mi pare logico dove io possa andare alla fine, no? Emiliano, Ci siamo informati prima, ripeto, dove conoscevamo, e poi abbiamo visto altre due situazioni, in questo caso con Proro, uh-huh, e appunto questa valutazione è stata ben superiore rispetto a quella della gioielleria. Emiliano, ufficiale, posso chiederle come si è conclusa la transazione per capire se Comproro, al quale è andato, anche avendole offerto di più, magari un aspetto che a lei avrebbe potuto generare qualche sospetto, se poi la transazione si è conclusa con tutta una certificazione rilasciata alla fine dall'operatore? Una ricevuta dove praticamente si può risalire al fatto che lei è stato il venditore, perché questo è un aspetto importante. Guardi, io le dico, e non ho la certezza matematica, ma mi sembra che non ci sia il nome del venditore, cioè il nostro, però c'è la certificazione di quello che è stato acquistato da loro, quindi venduto da noi, e l'importo per cui è stato pagato. Benissimo, grazie molto Emiliano. Sento velocemente anche Giuliano da Vercelli, così faccio fare un commento complessivo a Zironi. Giuliano, buongiorno. In questo caso abbiamo un orologio, però è così, però interessante. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'intervento. Casualmente ho voluto far stimare un vecchio orologio d'oro. Menziono l'oro perché era talmente rosso che non sembrava tale, tant'è che sembrava, come dire, anomala la situazione. Oltre al commento del peso, che anch'io ho potuto verificare l'aneddoto dell'ascoltatore che ha parlato prima, la figura che avevo dall'altro lato del bancone, tutta bella ghindata in trucco e parrucco, si è proposta di dire: ah, noi facciamo il peso quando togliamo, cercate di capirmi, quelle due alette dove fermano il bracciale in pelle sì, dell'orologio, lo tagliamo, perché dicono quella non può mica essere oro, non possiamo mica pagarle una roba che non è oro. Quando sulla carcassa c'era la timbratura di quello che è una caratteristica tipica dell'oro, del produttore oro, deve funzionare la carcassa. Io posso riconoscere che fosse stato, come dire, oro rosso, nel senso che aveva poco oro all'interno in termini di percentuale, ma questa con un banale tronchesino stava già per tagliarmi quei quattro alette. Lei ha preso la tronchesina e gli ha tagliato le mani. Io andessi via appesantito da tanto oro in tasca. Ecco. La situazione si è fermata lì, e nonostante tutto, ripeto, il particolare del peso, c'è molto da discutere sulla precisione degli strumenti, perché allo stesso giorno ho fatto un giro di quattro attività in proposito e nessuno segnava lo stesso peso conforme all'altro. Grazie Giuliano, grazie anche a lei. Allora, io ho un minuto di tempo prima di far fare la risposta a Zironi, che magari ha necessità di essere un po' esaustiva, un po' lunga. Sentiamo anche Michele da Barletta, poi suggerimenti per chi è in viaggio, così vado con gli ospiti direttamente. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Ci dica. Salve. Io volevo dire che per motivi di lavoro ho assistito una signora dipendente di una catena di vendo oro, la quale era addestrata dal suo, diciamo, titolare in questi termini: cioè c'è un 10% di tara inferiore sulle bilance, e la cosa, diciamo, per la quale secondo me, se dico prima il maggiore, bisogna approfondire le indagini, è che forniva tutti questi dipendenti di una carta di credito ricaricabile. E quindi i dipendenti si trovavano delle somme di denaro per acquistare l'oro ogni giorno, ricaricava queste carte di credito intestate a varie persone, eludendo così quindi il fisco da un lato e lasciando delle ricevute che effettivamente non erano delle ricevute così come la Banca d'Italia autorizza a rilasciare a questi venditori. Quindi diciamo è giusto tutto ciò che dicono gli altri telespettatori, radioascoltatori, che occorre verificare i vari pesi, però in relazione alle indagini occorre secondo me che la Guardia di Finanza verifichi i dipendenti se hanno delle carte prepagate, perché li troveranno proprio il bando della matassa e verificheranno che queste carte prepagate sono fatte dai datori di lavoro che mettono denaro per eludere, diciamo, ottimo, grazie Michele, grazie anche a lei per la sua testimonianza. Sono sicura che da Roma il maggiore Ape avrà preso nota, ma sono anche sicura che questi procedimenti, queste procedure in finanza le conoscono perfettamente, però insomma avere un rafforzamento anche nelle vostre testimonianze non fa male. Allora, 800 24 00 24, numero verde ancora per i nostri ascoltatori, per raccontarci se hanno voglia i casi, se vogliono, dei quali sono stati i protagonisti, oppure se ci vogliono chiedere delle cose per fare una trattativa come dire decente con un operatore nel settore dell'oro, qualora si abbia il sospetto che questo non opere secondo criteri invece di correttezza trasparenti. Comunque, Andrea Zironi, tre belle testimonianze, quella di Emiliano da Lucca, Giuliano da Vercelli e Michele da Barletta. Da quale vuole cominciare? Quella di Barletta mi ha fatto molto pensare. Una bellissima testimonianza, però molto, molto pericolosa, nel senso che prendo atto e sono rimasto fermo al dato del 10%, ho capito bene, cioè le bilance devono far delle tare del 10%? Sì, lui ha detto, ha dato questa percentuale. Quella non è una tara, quello è un furto. Detto questo, però mi permetto di fare prima un... Qual è una tara corretta intanto, no, qualora no, volesse fare... Se non c'è tara, non c'è tara. Non c'è punto, cioè, ecco. Se io metto sulla bilancia una catena che non ha nessuna pietra, che non ha niente, pesa 10 grammi, quelli sono 10 grammi. Perfetto, quindi diciamo che il... potrebbe essere, guardi, mi permetto, ci potrebbe essere uno 0,5 della molla di chiusura dell'anello che chiude la collana, ma... Senza metterlo nella bilancia l'operatore può andare anche ad occhio, perché se è un professionista diciamo che qualche volta può anche così ad occhio. Vabbè, detto questo, esatto. Quindi però, prima cosa, attenzione alle tare. Mi preme fare una precisazione. È passato un concetto sbagliato, nel senso che andiamo dal gioielliere di fiducia. Tutto rispetto per i gioiellieri, nessuno escluso. Però oggi l'attività prevalente, l'attività che fanno tutti non è vendo il gioiello, ma è compro l'oro. E sono tutti compro oro oggi. Ecco, però di questo aspetto che ci ha raccontato prima, lui, l'ascoltatore Emiliano, diceva io proprio per essere tranquillo, ma una differenza di... però è anche vero che lui necessariamente vuole incassare qualcosa di più. Ha fatto bene, e qui si va purtroppo... È difficile dire no, qua non c'è trattativa. Esatto, qui appunto, ma ha ragione quel telespettatore, qui si va purtroppo contro al 23107 che ha nominato il maggiore APE, che è la normativa sul limite del contante. Purtroppo, e io dico purtroppo, l'utente finale oggi è in difficoltà economica, vuole i soldi, cioè vuole i suoi soldi, a fronte di chi come noi rispetta il limite e non gli dà più di 1000 euro in contanti, perché la legge ci vieta di dare del contante oltre 1000 euro, e io parlo per me, io parlo per la mia, per tutti i miei negozi. Tutti i miei negozi sono collegati con un unico database. Se lei mi gira tutti i miei negozi da Cagliari a Como, lei più di 1000 euro oggi non ne prende. Certo. Okay? Però troverà quello che invece gli dà anche i 5, i 10 mila euro, glieli dà tutti uno sull'altro. Lei, utente finale, se ne frega se io non le posso dare più di 1000 euro. Lei ne ha bisogno, vuole, perché magari è protestato, perché magari è esposto in banca. Se non devi può fare pagare la bolletta del metano da 500 euro il mattino dopo, e lì non c'è trattativa che tenga, ovvio. Quindi qui non è colpa del compro oro che non ha rispettato il limite, oppure che l'ha rispettato. Qui c'è tutta una serie di... c'è un sistema di difficoltà che alimenta questo giro. Oltre, ecco. Allora, però, sono un pochino, cioè ho ascoltato l'ultimo intervento e mi sono drizzato. L'ha disturbata, lo capisco, sì, infatti. Sì, perché il 10% è tanto. E poi le dico anche di più, non c'è bisogno di avere le carte prepagate per i limiti che esistono, perché oggi si trovano in rete, lei trova, si chiama generatore di casuale di nomi. Le dico il termine in inglese, lo troverai in rete. Fake name generator. Sì. Questo qui, lei va su questo sito, lei potrà generare tutte le identità che lei vorrà, dall'italiano all'italiano che vive in Giappone, dal giapponese, dal russo, le danno tutto quello che le serve, dal documento, da una carta d'identità, a un numero, a una carta di credito, e lei li va a spendere. Sì, detto questo, magari allora evitiamo di dare questi suggerimenti a chi invece questi generatori di identità non li conosce, quindi vabbè, ormai... Sta diventando importante, quindi ecco perché la ricevuta che noi... mi interessava sollevare questo aspetto. Esatto. Allora, andiamo proprio al suggerimento pratico, perché molti ascoltatori ci stanno chiedendo allora che cosa dobbiamo fare. Allora, giriamo quanti più punti vendita possibile per vedere intanto di avere a che fare con un interlocutore che almeno a pelle ci possa sembrare serio. Farsi fare un'offerta, però anche lì, che sia magari che non si discostino due offerte tanto l'una dall'altra, poi vediamo che cosa può fare la differenza. La ricevuta dettagliata. Una volta che abbiamo individuato l'operatore che fa al caso nostro. Il tema è capire che documentazione ci deve rilasciare questo acquirente del nostro oro, dottor Zironi, perché qua mi pare importante, le interpretazioni sono tante, no? Allora, non c'è un obbligo di dare un documento al cliente che entra. Questa è una nostra autoregolamentazione interna, perché la legge non prevede che il cliente debba uscire con un documento che attesti la vendita, perché in teoria il venditore è l'utente finale che vende a noi. Okay, quindi non c'è l'obbligo, noi ci siamo autotutelati per rispetto verso il consumatore che è entrato, dando in mano, cioè rilasciando in mano a quel cliente una, io la chiamo ricevuta, lei la chiami come pezza d'appoggio, un documento che comprova che cosa? Chi è quel signore che è entrato a vendere, quindi tutti i suoi dati del suo documento, tutti, lui è lì di fronte, dati del documento, tipo di documento, scadenza del documento, pesi degli oggetti venduti. Noi facciamo anche la fotografia degli oggetti e la abbiniamo a quel documento. Descrizione dettagliata degli oggetti, importo pattuito, se in contanti o se con mezzo che è tracciato quale bonifico o assegno. Il cliente la firma ed esce con la sua copia firmata, una copia a lui e una copia a noi. In questo caso, se un domani a un controllo interno nostro vengono a prendere i registri, tipo la Guardia di Finanza, piuttosto che la Questura, piuttosto che i Carabinieri, e vanno a fare delle verifiche, e andando a casa dei soggetti, il soggetto potrà sempre dire, sì è vero, io ci sono andato. E questa è la mia ricevuta, ma sono proprio io, non è un altro. Senta, sempre per andare sui suggerimenti pratici, ci sono molti ascoltatori che ci chiedono, ma ci sono degli elenchi ufficiali di nomi di operatori che operano secondo i criteri anche di autoregolamentazione della categoria? Quindi per esempio i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato, se Giuliano da Vercelli, che ha stimato l'orologio con questa operatrice che voleva appunto fare un po' la furbetta su, sottostimando chiaramente anche il peso dell'orologio, ma per esempio su Vercelli lui non potrebbe accedere ad un sito internet dove c'è il nome di tutti gli operatori del settore, che ne so, formalmente riconosciuti da nessuno in realtà, no, perché non esiste. Non c'è, l'unico albo che lei troverà, tra virgolette, è quello che c'è all'interno di Banca d'Italia, alla voce degli operatori professionali in oro. Purtroppo però, e qua dovrebbe aprirsi un'altra polemica. Un'altra polemica, gliel'ho detta prima, esatto. Importante che io ripeto che Banca d'Italia sta un po' abbandonando la vigilanza su questo settore al Banca momento. Non ha mai voluta la vigilanza e quindi non c'è oggi, ecco, diciamo, a tutti gli effetti non c'è e si è generato una grande confusione. Non mi sento di dire che è colpa del compro-oro dell'operatore professionale, qui c'è una gran confusione nel settore. Sta di fatto che oggi chiunque che voglia fare questa attività la fa in maniera tranquilla, perché non ha barriere all'ingresso e la fa con una semplice licenza amministrativa di pubblica sicurezza, che è il tema di cui parlavamo prima. Allora, intanto, per chi volesse sapere qualcosa di più su, comunque, come dire, tutte le regole per poter fare una transazione secondo i criteri che abbiamo raccontato noi questa mattina, sul sito di Anopo ci può andare, presidente, giusto? www.anopo.it. benissimo. L'ultima testimonianza di Mauro da Verona e poi salutiamoci. Mauro, buongiorno. Buongiorno, avevo bisogno di un chiarimento magari dei vostri esperti. Io ho cercato di vendere delle catenine d'oro di mia madre, vecchie, che non interessano più a nessuno, e mi dicono che è oro a 14 carati, cioè con basso tenore d'oro, ma non riesco a venderle. Non ha mercato questo, Zironi? No, ha mercato o non ha mercato? Sentiamo, Zironi. Ecco. No, io penso che sia, cioè, c'è qualcosa che di anomalo, perché è impossibile, cioè nel senso che l'oro 14 carati non è altro che la quantità di oro dentro alle sue collane pari a un titolo di 585 millesimi, quindi vuol dire che quasi la metà di quel peso è oro. Quindi mi sembra strano che non ci e sia, quindi deve girare un po' di più. Mauro, grazie. Lamberto Santini, 30 secondi di tempo, l'Associazione dei Consumatori, per un'ultima raccomandazione agli amici che ci seguono da casa. Sì, io vorrei insistere su questo fatto della legalità e della trasparenza. L'articolo 247 del regolamento di polizia impone al titolare di compro-oro o gioielleria di prendere atto e trascrivere sul registro di pubblica sicurezza sia i dati del venditore sia quelli del compratore, oltre che la qualità e la quantità della tipologia dei soggetti, perché il rischio grande qual è? Perché si fanno anche pubblicità con attori famosi eccetera, che la tracciabilità non esista e il compratore o il venditore imprenditore si trovi implicato in progressi e soprattutto situazioni di malavita che devastano poi lo stesso venditore che frequenta il Compraoro. Quindi il consumatore deve fare tanta attenzione, perché la normativa che non esiste è porta molto spesso a creare problemi di legalità. Non grazie. A caso la Boccassini ultimamente è entrata in questo percorso dei Compraoro e nel Lombardia. Benissimo, grazie. Speriamo che queste indagini le faccia con la stessa intensità con cui le fa a carico di un altro noto personaggio pubblico. Grazie a Lamberto Santini, presidente di ADOC, Andrea Zironi, presidente di Anopo. Noi torniamo domani. A tutti, buona giornata.